Dunque, riprendiamo la linea Radio Onda Rossa, sono le 12.30, la conferenza stampa è iniziata. Come quindi, strumento insomma, di governance, ecco, da parte dell'amministrazione di questa città e territori dove sono in difficoltà, gli rendono possibile fare un'occupazione finta come quella di Via Valdala 200, un'occupazione in cui non c'è una famiglia, in un palazzo che è vuoto, con l'unico ed esclusivo obiettivo di inquinare una normale dialettica politica e sociale, ma anche del conflitto sociale in quel territorio. In quel territorio, come in altri territori a Roma, dove le destre non governano, dove le destre sono in difficoltà, dove la società civile, i movimenti, le realtà politiche di opposizione stanno guadagnando terreno, stanno costruendo esperienze vere di conflitto sociale, politico, culturale e di autogoverno. Questo per noi è il punto, per questo abbiamo portato tutte le locandine di iniziative, organizzazione neofascista Casa Pound, finanziate e patrocinate dal Comune di Roma in maniera esplicita e pubblica. Crediamo che questo debba cominciare a essere un problema serio, perché cominciano ad essere sui margini ormai, con l'escalation di violenza che si sta consumando anche in altre città, come a Napoli, dove un candidato di Casa Pound dentro le liste del PDL accoltella gli studenti fuori l'università. Comincia a esserci una situazione in cui forse qualcuno dovrebbe prendere in considerazione che non si può più flirtare con questi personaggi, perché il gioco si sta facendo molto molto pesante. E noi lo diciamo chiaramente in maniera... Ora vediamo un attimo di riprendere la comunicazione. Verso il portone ho sentito prima arrivare una serie di motorini e poi ho sentito dei passi rapidi alle mie spalle. Nel momento in cui mi sono voltato c'erano due figure, una coperta da un casco integrale, l'altra invece coperta da un passamontagna. Quello con il casco integrale brandiva il coscio di una bottiglia spaccata, con la quale sostanzialmente ha cercato ripetutamente di sfreggiarmi. Sta andando in onda la conferenza stampa al Campidoglio, sta parlando il compagno che è stato aggredito stanotte. Colpi, l'ho presi, l'altro sono riuscito in qualche modo ad allontanarlo, insomma, a inserirmi male, e poi ci ho fatto un'altra serie di calci. Oltre a queste due figure ce n'erano altre quattro che erano invece sui motorini, che li attendevano nella via accanto a quella dove abito, e sostanzialmente questo è il fatto. Poi c'è stato l'intervento degli inquilini del palazzo dove abito, che sono stati in grado di, insomma, come di soccorrermi, e poi gli aggressori se ne sono andati. Penso che la dinamica tecnica, che è quella che vi ho raccontato e che parla, insomma, di un'ennesima aggressione fatta sotto casa, in tanti, contro una persona di notte, cose che sono, cioè, io ho già raccontato perché chiamato alle autorità, insomma, giudiziarie, per cui sarà a loro dire quello che è accaduto, come dire, nel dettaglio tecnico. A me quello che mi preme è un po' invece entrare nel merito del perché è capitato tutto questo. Io penso che sia capitato fondamentalmente perché sono giorni che il mio nome la mia faccia, le immagini mie mentre sto in piazza per contestare il fatto che i neofascisti si permettano di occupare sotto gli occhi di Carla Verbano, sotto l'abitazione di Valerio, in un quartiere dove non hanno nessun tipo di legittimità. Insomma, questa mia esposizione è stata trasformata nel farmi diventare un bersaglio, non solo a me, ma a tutta una serie di compagni che sia a livello cittadino sia a livello territoriale agiscono, perché fondamentalmente nel fatto municipio ci sia una agibilità democratica libera da chi sostanzialmente, come si è dimostrato qualche settimana fa, ha anche il coraggio di prendere dei ragazzi di cui uno apparteneva a dei collettivi politici, ma gli altri erano dei semplici ragazzi del quartiere, e dei ragazzi anche prenderli, bastonarli, prenderli a cascare e mandarli all'ospedale. Il nostro territorio erano anni che non veniva queste cose, erano anni che questo non succedeva. Questo clima è tornato e si sta ricreando ad arte con l'occupazione di via Valdala fatta da Casa Pound, che è passata per la Parini e poi per il trasferimento in via Valdala. Da quando c'è questa presenza in quartiere c'è un'escalation di violenze, un'escalation di insicurezza profonda, che è anche da una presenza massiccia di forze dell'ordine che esercitano fermi in tutti i bar del quartiere continuamente, anche ieri a via Calandraia. Ci sono decine e decine di persone che vivono quelle strade che vengono fermate, vengono controllate. C'è un clima che si sta continuamente appesantendo per volontà, perché io non trovo nessun altro tipo di spiegazione nel venire a fare un'aggressione sotto casa mia il giorno prima di un tavolo per l'ordine e la sicurezza che deve discutere di quel territorio. E io non è che, cioè, che ho molto altro da dire, anche perché ho passato una notte su una barella infame, piccolissima, nel corridoio del Sant'Andrea. E sono riuscito per fortuna a non farmi troppo male, però insomma queste persone hanno dovuto per lasciargli un segno in faccia che non si cancellasse. Per cui io penso che ora invece la questione deve ritornare alla politica, e io penso che già nei prossimi giorni dobbiamo fare delle grandissime mobilitazioni che risvegliano il tessuto del quarto municipio, ma di tutta la città, perché Casa Pound non è solamente, come dire, un'accusa che viene dagli antifascisti, è un continuo nel nostro territorio. Oltre all'ultima aggressione per cui Antonio Palladino, portavoce dell'occupazione di via Valdala, è indagato in questo momento per aver picchiato i ragazzi a Talenti, era già stato indagato, aveva già avuto delle misure restrittive perché era entrato nel liceo Nomentano e ha cascato, aveva mandato tre ragazzi di 16 anni all'ospedale. Quindi c'è una pratica comune che Casa Pound ripete in ogni quartiere. Io oggi non posso dire se sono stati direttamente loro, però posso certamente dire che la responsabilità è da loro. Sono giorni che mettono i nostri video, le nostre facce, che ci arrivano come fomentatori di odio, che ci indicano come bersagli da colpire, e qualcuno probabilmente ha provato a farlo. Per fortuna gli è andata male, perché se siamo riusciti a difenderci. Ora però io penso che l'importanza è che a partire da questa conferenza stampa la Roma antifascista in qualche modo si rimobiliti in termini pubblici, in termini di partecipazione, di dibattito forte, perché via Valdala deve andare via dal quarto municipio. Noi vogliamo vivere tranquilli a casa nostra, noi abbiamo sempre vissuto tranquilli, dove siamo sempre tornati a casa, dove non abbiamo mai fatto aggressioni sotto il portone a nessuno. Questa è la storia dello Rus Project, del centro sociale Alfa, della palestra popolare Valerio Verbano, una storia di partecipazione e non di aggressioni. Chi parla di opposti estremismi ne parla per opportunità politica, sempre a rischio grave lo spettro degli anni 70, è un gioco che ha fondamentalmente stancato anche noi, perché non abbiamo nessun tipo di nostalgia per quegli anni, lì perché è già dimostrato da più parti nella storia di questa città dove vengono le aggressioni, gli accoltellamenti, le poste fuori scuola e le aggressioni sotto casa. E credo che già oggi, insomma, in municipio proveremo a capire come fare una grande assemblea pubblica con tutto il territorio, con tutte le forze pubbliche del territorio, le forze sociali, i comitati di quartiere che sono anche riuniti nel laboratorio dell'altra città, che io penso sia una delle esperienze che mette veramente paura su quel municipio, perché sta unendo pezzi spesso molto lontani della sinistra e dell'opposizione in quel municipio, ma che sono alcune cartelle che stanno legando, stanno facendo campagna comune. L'obiettivo della presenza di Catapound è fermare questi percorsi e riportare tutto a una spirale di violenza, arresti, degenerazione e agguati sotto casa. Noi dobbiamo combatterla con il profilo pubblico del nostro office. Tempismo direi perfetto, la linea è cascata proprio mentre l'intervento di Luca volgeva al termine. Ora ricontatteremo i compagni presenti al Campidoglio per capire insomma come sta proseguendo la conferenza stampa. Ha un meccanismo che secondo me è la cosa ancora più preoccupante, oltre ovviamente l'incolumità fisica dei singoli militanti attivisti. Sta parlando Andrea Alzetta. Per cui sostanzialmente la prefettura di Roma insieme alla questura dicono, se continuano a venire a episodi di questo tipo, io alla fine faccio tabula rasa, cioè faccio un'operazione appunto di riduco i problemi sociale di generazione, ma anche del laboratorio politico che i compagni che oggi stanno dentro Pazzo, ma che stanno appunto che stanno dentro l'Asta, hanno avviato in qualche municipio un laboratorio aperto anche alle forze politiche ufficiali, tra virgolette ufficiali, e che vuole costruire un'alternativa al malgoverno di Bonelli in qualche municipio. Quella roba lì viene ridotta a un problema di ordine pubblico, da questo punto come un meccanismo ritorsivo. Per cui appunto abbiamo una sorta di presenza di questi signori di Catapound che non sono altro che combattono il potere, sono i servi del potere, sono da questo punto di vista utilizzati strumentalmente per appunto riportare il conflitto non rispetto ai contenuti, non nel merito rispetto appunto per esempio alla casa, usata appunto come alibi per occupare la scuola Parini, e poi appunto invece dimenticato sostanzialmente quando si sposta in via Valtala e annunciano che quello doveva diventare il circolo combattente a Catapound, cioè si sono dimenticati delle ragioni per cui avevano occupato, e questo nasconde dietro le grandi responsabilità del sindaco Alemanno, perché signori questo è il bilancio che dobbiamo approvare. L'ultima pagina riguarda appunto le politiche abitative, dove come sempre in questo comune non c'è una via, peccato che si spendono 11 milioni e 8 per comprare uno spazio del demanio a via Napoleone, indovinate qual è? Abbiamo decine di spazi occupati dai movimenti lotta per la casa, guarda caso non si compra nessuno di quelli, spendiamo come comune di Roma, a forse nessuna politica abitativa, si mette in campo concretamente, perché hanno comprato da 3 anni a questa parte sul mercato 230 case e punto, l'unica cosa che hanno fatto in 3 anni, hanno comprato gli avanzi del piano della loro di 230 case, se spendono 11 milioni e 8 per comprare la casa ai fascisti, perché quella là è una sede politica e c'hanno anche casa, e non c'è da niente però col bisogno di casa dei soggetti reali, che sono migranti, che sono precari, che sono famiglie con basso reddito che non ce la fanno da me. Beh, la politica è come dire cosa la casa e dà 11 milioni e 8 a questi signori e sta scritto sul bilancio, non è che mostra la metà, come appunto il padre civile di queste iniziative. Allora faccia chiarezza da questo punto di vista al sindaco, che dice che si è lavato a Fiuggi e si è depurificato dai suoi passati remoti fascisti, però peccato che sono questi fascisti che dichiarano pubblicamente di essere appunto i fascisti del terzo millennio, ce va a cena e gli compra le case e gli finanzia le iniziative. Quindi magari si sarà anche, rifà una passata a Fiuggi, rifà un'altra lavata un po' meglio, perché da questo punto di vista, nonostante nega la sua appunto esperienza storica, dice, e dice pubblicamente appunto che l'esperienza della dittatura fascista fu uno degli orrori della storia, però detto quello, poi in realtà si circonda da questi figuri. Allora su questo il comunismo non può far finta che appunto casca dalle nuvole. Da questo punto di vista il comunismo sta usando questi signori di Casamal per riuscire a deviare il senso dei conflitti e trascinarlo in uno scontro farbando, che a noi non ci interessa. A noi dei fascisti non ce ne frega un cazzo. L'importante è che ci diventa la garanzia, appunto, la civiltà nelle scuole, nei territori, perché quello ci importa, perché poi sono appunto gli strumenti della democrazia elementare, la possibilità appunto di avere un terreno dove si può agire politicamente in termini liberi per produrre appunto le proprie rivendicazioni. Ma mettere sullo stesso piano le esperienze di movimento di appunto parte e quelle di Casamal è un'operazione politica che tende a militarizzare il conflitto, che invece da questo punto di vista è strano che ci sia in questa città e che sia diretto contro questa amministrazione che sta facendo male alla città e che più è anche circondata da fascisti che vengono anche assunti all'APAC e che vengono comprati i posti. No, io ieri presso appuntamento stavo con Nicola Zingaretti a vedere la mostra dei fratelli Mattei sul rogo di Primavalle insieme all'assessore alla scuola e al presidente della commissione scuola, e non più tardi di 20 giorni fa tutto, diciamo, sia il segretario che tutti i livelli più alti del Partito Democratico di Roma stavano a visitare la stessa mostra. Ora io sono un po' preoccupato, molto, e vedo che da una parte politica c'è un grande sforzo per girare pagine e uscire da una transizione italiana che appare infinita, ma mi pare evidente che dall'avvento di questo sindaco sono successe varie cose. Gli scontri a Piazza Navona non si vedevano da 30 anni in questa città, i fatti fino a quello di stamattina continuano a susseguirsi, le entrate appunto in luoghi simbolo della democrazia, penso all'informazione quando questi signori sono entrati in RAI oppure in CGL, nel più grande sindacato italiano. Pertanto una situazione molto delicata alla quale appunto si contrappone un atteggiamento un po' diverso, mentre appunto c'è chi da qualche parte, compresa, per chi non lo sapesse, una delibera che ho steso all'epoca con Crossi per fare una consulta sugli anni di piombo di nuovo per riparlare e superare la transizione. Oh, Allora è in corso la conferenza stampa di denuncia rispetto a quanto accaduto stanotte nel quartiere di Montesacro, quando un compagno, Luca, è stato aggredito da una squadraccia di fascisti, una aggressione che ha una matrice ben precisa, targata Casa Pound in particolare, sicuramente di mezzo, insomma, non può che esserci l'occupazione di via Valdala, da cui sono partite tutte le spedizioni che hanno caratterizzato questo ultimo mese nella nostra città, e dunque sicuramente c'è un clima che è stato orchestrato ad arte, nel quale insomma l'amministrazione comunale è più che complice, dato che di fatto insomma spalleggia Casa Pound nelle sue attività, sia di carattere politico generale attraverso le entrature che ben conosciamo, anche all'interno dei servizi municipali e della gestione, diciamo così, della cosa pubblica, anche poi attraverso, diciamo, una serie di iniziative a partire dalle quali insomma gli stessi fascisti si ritrovano poi anche a essere oggetto di lauti finanziamenti che vanno a promuovere le loro iniziative di carattere pseudo culturale. E dunque si stava appunto svolgendo questa conferenza stampa, in questo momento stava intervenendo un consigliere comunale del PD, noi riprenderemo la diretta non appena insomma rinterverranno i compagni lì presenti. non è una questione di nostalgia degli anni di piombo, è una questione reale di poter vivere serenamente sui nostri territori. Ricordava giustamente le lezioni nelle scuole, lui non è come si chiama, per anni. Questa... Ancora la diretta dalla conferenza stampa. Ecco, la linea è caduta e ci rimettiamo subito in contatto. L'attività è quella di fare vero e proprio terrorismo sotto casa delle persone. Sono poche cose per portare tanta solidarietà a Luca e a tutti i compagni e le compagne del Tucello. Perché quel territorio in questi mesi ha costruito un'esperienza particolare. Siamo venuti da tante parti di Roma a fare iniziative a Maggiorina, alla palestra Valerio Verbano, in tante altre zone di quel territorio, chiamati a raccolta dalle associazioni, dai movimenti di quel territorio, per ragionare non solo sul Municipio Quarto, sugli scenari pur interessanti e devastanti che li riguardano, la metropolitana, la costruzione di... Questo è Gianluca Peciola, consigliere di SEL, vabbè, magari un pezzetto ce l'ascoltiamo. Su come i quartieri possano ricostruire e ricandidare dal basso un'ipotesi di protagonismo da mettere al servizio del necessario riscatto a cui questa città si deve apprezzare. Lo abbiamo fatto appunto discutendo a lungo, per ore, lanciandoci altri appuntamenti e anche raccogliendo dal quarto municipio segnali che abbiamo riportato dentro i territori, cercando di costruire anche in altri territori dove magari lo scenario è meno di frontiera che non nel quarto municipio, forme di protagonismo simili che possano dialogare e costruire un patto appunto di protagonismo dal basso su Roma. Questo laboratorio viene aggredito oggi sotto casa, ieri tramite occupazioni pretestuose che sono occupazione militare del territorio, attacco all'incolumità fisica di chi in quel territorio ci fa attività politica. La risposta deve essere il cittadino e di tutti, non possiamo permettere appunto che si lasci campo libero alle facili interpretazioni di due schieramenti che stanno là, ognuno più o meno arrabbiato, ognuno più o meno legittimato, perché non è così, perché c'è da una parte appunto chi fa politica nei quartieri e dall'altra chi sta lì per dar fastidio a chi fa politica nei quartieri. È chiaro che ci mettiamo anche al servizio dei compagni del quarto municipio per iniziative pubbliche di massa partecipate che vogliano costruire in questi giorni e nei prossimi mesi, per farne quindi un laboratorio cittadino, no? Perché il quarto municipio è quello dove fino al municipio c'è una presenza forte di questo centrodestra. E dobbiamo capire una volta per tutte pure una delle cifre di questo centrodestra, lo ricordava prima Andrea, lo ricordavano altri interventi, le sponsorizzazioni, i patrocini a Casa Pound, i soldi a Casa Pound e 7 ordinanze del sindaco dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale che continuano ad essere applicate e ad indirizzare la Polizia Municipale e altri soggetti di questo comune a lavorarci sopra. Allora, diciamo, se possiamo pensare e sappiamo bene, perché l'abbiamo vissuto, che la scia delle aggressioni neofasciste è precedente alla presenza del sindaco Alimano, no? C'è una lunga scia, noi ricordiamo Renato Biagetti come vittima che purtroppo ci ha lasciato la vita su questa lunga scia di sangue che ha visto aggressioni neofasciste, una legittimazione col sangue, con le aggressioni, con la violenza di queste organizzazioni dentro la città di Roma. Se questa non è, però da quando c'è Alemanno, diciamo, la galassia neofascista si è riorganizzata intorno a due direttrici, con alcune organizzazioni che si sono messe a fare la classe vera e propria, e quindi hanno fatto dei passaggi di legittimazione, e altre che si sono messe a contrattare dall'esterno. E contrattare dall'esterno, ovviamente in qualche momento cercando di assumere, di avere anche l'idea di una posizione critica, ma sostanzialmente mettendosi dentro una contrattazione dall'esterno che è di servizio rispetto a quelle che sono le necessità di questo centrodestra. Che sta facendo un passaggio, appunto, sta portando Roma a una situazione di incostituzionalità permanente. Sulle ordinanze, come su Casa Pound, come sulle aggressioni neofasciste e con il rapporto con quella galassia. Ecco, noi siamo a disposizione, io vengo qua appunto dall'undicesimo municipio a dire ci siamo, costruiamo un'ipotesi politica politica che riesca a ricacciare queste provocazioni e che riesca a garantire l'agibilità fisica e politica di tutte le persone che a Roma vogliono cambiare questo stato di cose. Abbiamo ancora 4 interventi, 5 minuti l'uno veloci, e poi diamo gli appuntamenti, segnaliamo alcune cose importanti. Francesco Raparelli, ieri. Allora, nel portare solidarietà da parte di Est, di Unicom, di Point Break a Luca, che insomma è un nostro fratello, un fratello di tutti, io vorrei partire dai fatti accaduti pochi giorni fa, perché proprio con Luca e con molti altri ci siamo trovati a Roma a generalizzare lo sciopero, abbiamo bloccato la stazione Termini, abbiamo bloccato molte strade, ci sono state tante cose quella mattina. Beh, la risposta del sindaco Alemanno quel giorno è stata puntuale, immediata, è arrivata di primo pomeriggio. Sono inaccettabili azioni illegali durante lo sciopero, bisogna riportare lo sciopero dentro le regole e dentro la legalità. Chiaramente un attacco rivolto da Alemanno alla CGIL, ma un attacco rivolto da Alemanno fino in fondo ai movimenti, a chi riteneva lo sciopero di 4 ore della CGIL insufficiente e a chi ritiene necessario generalizzare lo sciopero per parlare dei precari, dei diritti che i precari non hanno, per parlare di welfare, per parlare di reddito, per parlare di diritto alla formazione. Beh, sono passati pochi giorni, Alemanno invece non sa cosa dire o non dice nulla sull'illegalità che è accaduta questa notte, ma il tema va da sé che non è il problema delle regole, è il problema della legalità, il tema è la sostanza di quello che è accaduto. E penso che su questo è giusta la dichiarazione politica che dice dobbiamo rendere illegale Casa Pound, è un lavoro che va fatto, è una battaglia che va portata avanti, però dobbiamo renderci conto che siamo in una situazione molto diversa da quella degli inizi degli anni 90. L'arcipelago neofascista, come è stato raccontato qui, è un arcipelago fino in fondo difeso dal PDL, interno al PDL, utilizzato dal PDL, lo dimostrano i fatti napoletani così come i fatti romani. Quindi stiamo parlando di questa nuova cosa, di una nuova destra che è nello stesso tempo amica della finanza, del mattone e dei neofascisti che agiscono in prossimità delle scadenze elettorali per creare caos, per creare problemi all'interno della città, per mettere in crisi i laboratori politici più avanzati come quello del quarto municipio. Chiaramente una battaglia decisiva è quella che indicava Andrea, da questo punto di vista scovare tutti i terreni di finanziamento pubblico a questi soggetti è una sfida enorme, importante, che va condotta sul terreno istituzionale, su quello politico e su quello dell'informazione. Noi dobbiamo fermare questi rubinetti, perché questi rubinetti vanno avanti da anni, riguardano la Meloni e non riguardano soltanto Alemanno. Soldi dati a questi soggetti che crescono, aprono sedi, hanno soldi per vivere, hanno redditi, costruiscono imprese. Questo meccanismo, che è un meccanismo maledettamente materiale, noi dobbiamo trovare il modo di fermarlo. Andrea ha già indicato una strada e su questo dobbiamo fare campagna politica. Concludo però dicendo che la risposta più grande e più importante, politica e di movimento, che riguarda la dinamica istituzionale e che riguarda chi si mobilita dentro l'università, nelle scuole, nella città, a partire dai centri sociali e dai territori, in questo momento è una, più importante di tutte le altre. Lo diceva prima Andrea, lo dicevano altri, l'operazione di questa notte è un'operazione che ha un obiettivo molto preciso, direzionare la discussione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di oggi pomeriggio e far sì che questo Comitato decida che in quarto municipio entrambe le occupazioni vanno sgomberate. Allora, un pezzo di vittoria per noi importante, quella vittoria che dobbiamo provare a perseguire tutti insieme, è far sì che Pato non venga sgomberato. Questa è la risposta politica che dobbiamo dare. Grazie. Allora, continuiamo a seguire la conferenza stampa, soprattutto sperando di cogliere anche gli appuntamenti che immediatamente, a partire da quella sede, saranno lanciati per la giornata di oggi a seguire. E penso che la situazione sia preoccupante, perché non c'è soltanto la violenza politica fascista che riemerge, ma perché questo si colloca dentro un momento di crisi economica che morde nel tessuto sociale, che è approfondita e causata dalle politiche di questo stesso comune, e perché il neofascismo comincia ad alludere, a tentare di interpretare e di legarsi al disagio sociale che la crisi crea. Queste due cose creano una spirale pericolosissima dentro ad un processo di chiusura degli spazi democratici che sotto casa di Luca sono stati l'aggressione, ma che in televisione sono la richiesta di cambiamento della Costituzione. E allora io credo che noi una riflessione sul legame, sulla matrice di classe e sul legame tra crisi economica, attacco alle condizioni di vita della gente e riemergere del ruolo, è stato anche già detto, del fascismo dentro queste città, dobbiamo farlo. E allora non è una questione soltanto, come dire, no, delle cose che già sono state dette, importanti, chiudere i rubinetti, la delegittimazione, le mani, eccetera. C'è un problema di ripresa generale, io per questo penso che sarebbe utile che l'insieme delle forze antifasciste romane, partiti, sindacati, movimenti, singoli, programmassero una scesa in campo di grosse dimensioni, che sia all'altezza del pericolo che Roma corre dentro questa spirale. E l'altro punto, ma è inutile dire la ripresa del conflitto sociale, se non c'è, e io lo dico anche alle forze della sinistra moderata, se non c'è ripresa di conflitto sociale in questa città, se alle iniziative dei movimenti non si afferma e non si affianca il sindacato, i partiti, l'insieme della città antifascista, si innesca una spirale pericolosa. Anche per questo penso, per esempio, che la manifestazione del 30 contro il bilancio di Aleanno è essa stessa una mobilitazione antifascista, perché l'antifascismo oggi è la ripresa dei lotti sociali per togliere quello spazio dentro il quale il neofascismo romano sta giocando di sponda, come qualcuno ha detto, con Alemanno. Insomma, voglio dire, c'è un salto di qualità possibile rispetto alle cose che succedono e rispetto ai pericoli che nei prossimi 2 o 3 anni si prospettano nell'involuzione autoritaria di Roma e nazionale. Volevo ribadire anche sì, come abbiamo fatto già stamattina personalmente, la solidarietà di Sinistra Critica del quarto municipio. Io voglio soltanto sottolineare 2 cose, perché condivido tutto quello che è stato detto fino adesso. Intanto, io non credo che sia casuale, come dire, l'occupazione di Casa Pound in quella stessa di territorio di Roma, perché il quarto municipio, in particolare la zona Tupello, Valmelaina, Montesacro, da 2 o 3 anni sta conoscendo una rivitalizzazione politica e sociale, diciamo così, a tutto tondo. Ci siamo ripresi, diciamo, alcune nostre scadenze. È un quartiere dove si festeggia il 25 aprile, il 1° maggio, dove ci sono occupazioni abitative, dove c'è un protagonismo sociale, ripeto, politico veramente in ascesa. E credo che da questo punto di vista non sia casuale che Casa Pound abbia deciso di rifare dopo tanto tempo un'occupazione in quella fetta di territorio, prestandosi alle strumentalizzazioni che venivano ricordate prima, perché l'obiettivo politico, ce lo siamo detti fin dai primi giorni, è quello chiaramente di fare tabula rasa in quel quartiere e quindi smantellare anche l'occupazione dei compagni di base. L'altra cosa però, su questo ci vuole un po' di chiarezza. Io qui ho sentito cose che condividiamo tutti, allora questo ci deve mettere in condizioni anche di esprimere in modo unitario in questa città una iniziativa forte. In questo senso non è per spirito di polemica, però io, almeno noi non abbiamo apprezzato molto la condanna neutra e un po' ipocrita di Partisan che c'è stato in quarto municipio contro la violenza politica, perché ricorda un po' quando Veltroni intitolava i dialetti a Valerio Verbano, ucciso dalla violenza. Allora, la violenza, la matrice della violenza in quel territorio c'ha nome e cognome, è vero che da 1 mese e mezzo a questa parte in quel territorio si è rialzata la situazione politica, e l'obiettivo è quello di equiparare, far sì che poi tutto alla fine sia un problema tra opposti estremismi come è stato dichiarato. Allora, noi non dobbiamo accettare questo gioco, noi dobbiamo cominciare a dire che seppure ci fossero state delle famiglie che... Stiamo dando continuità alla diretta con la conferenza stampa del Campidoglio, conferenza di denuncia delle aggressioni fasciste dell'ultimo mese, ma soprattutto quella di ieri sera. Diamo continuità soprattutto nella speranza di cogliere i prossimi appuntamenti di risposta che saranno organizzati, sicuramente avranno come sede il territorio del quarto municipio. Rimandiamo, continuiamo a mandare la diretta, anche se stanno intervenendo insomma esponenti di partito, di solito non è nostro costume insomma dargli così tanto spazio, ma insomma ecco, per dare continuità comunque al filo telefonico magari lo facciamo uguale. Qualcuno li sta a sentire, devono dare una risposta, o quasi, devono dare una risposta su questa richiesta precisa. Casa Pound è un'organizzazione neofascista, lo rivendicano, bene, allora da quel punto di vista lì deve essere chiusa la questione. Poi ci vediamo oggi pomeriggio in zona se ci sono iniziative. Io mi riallaccio un attimo all'intervento dell'ultimo compagno, nel senso, questa è una storia che parte da lontano. Mi ricordo quando si andava a chiedere le dai cortei a Forza Nuova, praticamente questi hanno fatto metabolizzare a Roma, ma in particolare a tutta l'Italia, il fatto che i fascisti avevano il diritto comunque di fare queste cose che facevano i compagni, il movimento, gli antifascisti, le cose politiche antifasciste. Con la stessa logica è stata occupata Casa Pound, ai tempi c'era Storace, c'era Vertroni che a Roma continuava a sgombrare, a noi si chiedeva addirittura l'associazione a delinquere come Action, e c'era ai tempi Casa Pound che comunque prosperava e vegetava nella zona dell'Esquilino, anche lì operazione mirata all'Esquilino, non è un caso. Il problema è che purtroppo dal bravo Sansonetti a Paolo Buccia poi tornati a Casa Pound che diceva noi siamo inclusivi, paghiamo pure queste cose. E vorrei ricordare che si è sempre la stessa storia. Secondo me in quarto municipio stava avvenendo un processo di riorganizzazione sociale e politico che teneva insieme i vari punti di vista le varie forze politiche che dal basso stavano a provare a fare di quel territorio un laboratorio, con tutti i limiti, chiaramente anche le differenze, magari si stava a cercare di trovare i punti di convergenza su cui devo mettere insieme dentro un'esperienza locale come quella. Che cosa fanno questi signori? Non potendo bloccare questo processo politico e sociale, creano un problema di ordine pubblico, per cui è evidente che qui c'è una cosa che vedremo parlare chiaramente. Allora, il popolo di Roma nasce da una scissione di Casa Pound e c'è stato Giuliano Castellino, che oggi è la gamba sociale dalle mani di questa città. Hanno tappezzato tutti i quartieri di Roma, il popolo di Roma, dall'altro poi la solita demagogia. Per cui anche su questo è chiaro che c'è questo sindaco che fa un'operazione ben precisa, cioè quello da mesce la gamba sociale anche dentro la testa, dentro i quartieri popolari, perché stanno a perdere consensi, è chiaro, stanno a fare una figura del merda dallo stadio a tutti i settori della società, oramai non sono manco più accattivanti, non sono manco più attraenti, per cui un'operazione del solito innanzitutto ricrea un meccanismo particolare, secondo profana pure quella che è, diciamo, quello che è successo, cioè il fatto che è stata occupata quella scuola. È un'operazione pure abbastanza studiata, poi chiaramente ci sono pure belle teste che pensano dentro la giunta Alemanno, dentro questo aggregato nuovo che oggi sta governando la città, hanno mandato praticamente questi ad occupare la Parini che sta a 100 metri da casa De Carla e De Valerio, trattano praticamente per mandarli via sotto la spinta di un movimento antifascista, gli danno la dritta del Vanna Cuba. Ecco lì che il gioco è ripassato un'altra serie, è stato rimesso un'altra volta, come si chiama, le palle a centro praticamente, nel senso che spostandola da lì chiaramente crea l'elemento comunque di crisi nel consenso che poi crea, perché comunque si è andato a occupare di fronte insomma alla casa di un martire antifascista, e chiaramente però dentro quel territorio si è messo che più mentre c'è pure la politica che sta cercando di fare arrivando appunto da gamba sociale col popolo di Roma, per cui è riuscita a ricostruire un meccanismo in cui tutti i vari attori fanno un gioco che punta in una direzione, cioè quello di cercare di colpire il tentativo di ricostruzione dell'opposizione greca dentro questa città, che non è più appunto che prova a partire dalle cose concrete a ricostruire un consenso popolare, un conflitto sociale, un blocco sociale nuovo. Questo è, secondo me, è quello che si sta a giocare in quella zona. Quindi è il quarto municipio che era diventato un laboratorio in qualche modo, perché oramai questi ci hanno pure loro la memoria, non sottovalutiamo troppo, perché questi ragionano politicamente e quindi coscienti anche di quello che è il disastro sociale, politico e economico che stanno facendo. È chiaro che questo tipo di meccanismi favoriscono la possibilità, appunto, di parlare di problemi veri, che prima ci dava parte pure Francesco, si ritorni dentro questo meccanismo. Per cui poi questi dicono chiaramente siamo fascisti di accesso in media, sono anticostituzionali, ma è chiaro che c'è, ma qui di che stiamo a parlare, caro? Non è che scopriamo l'acqua calda, non sapremo, sarà la stessa storia, poi non è che voglio fare diciamo il radicale, l'estremista, ma con i fascisti il problema è sempre lo stesso, ci hanno un ruolo, forse in Cassano di tutti a me i servi del padrone a tutte cose, oggi questi governano pure e quindi continua a fare. Sia i servi dei grandi potentati economici che governano questa città, ma in più governano pure, la governano a modo loro, ci stanno vendendo per il culo, ma è evidente questa cosa, no? Per cui tutta l'operazione è pure quella dei conflittatelli, perché è stata la punta, comunque è il punto del vacolo di una lotta di un movimento pure studentesco di difesa della scuola pubblica che ha contaminato un pezzo grosso della società civile di questa città, perché la difesa della scuola pubblica non è che passa la sua tramite gli studenti, ma coinvolto genitori, bambini, famiglie intere, lavoratori, cioè questa è la situazione, per cui noi oggi abbiamo davanti questo tipo di situazione, questi si stanno preparando a leggere a livello sociale lo scontro con noi e per questo dobbiamo essere coscienti, per cui anche le forze politiche e democratiche di questa città sono qua una scelta netta, cioè non c'è dialogo, ma è chiaro che se quella va lì e ce va a parlare Arzonetti dice che devono sfilare il giorno del, ma non mi ricordo che avevamo fatto la manifestazione, abbiamo fatto tantissima cosa, cioè dal 4 giugno, cioè ma di fronte alla situazione così è chiaro che ormai l'operazione culturale è passata, che fare, voglio fare, quelli non lo vanno fatto, ci hanno messo uguale. Ma perché? Proprio perché c'è stato questo tipo di operazione infame, di metti tutti sul stesso piano, l'anni del piombo, e oggi si ritrovano tutti quei fascisti che stanno come le pare e noi dobbiamo stare pure attenti a quello che primo, perché niente, non ho visto questa cosa, per cui poi i compagni, purtroppo quello che è successo a Luca comunque ci deve far riflettere, paramos il culo compa, la sera torniamo a casa accompagnati. Cerchiamo di vigilare, cerchiamo di capire, dicevamo dietro, non dobbiamo abbassare la guardia, compa, purtroppo per anni si è andato avanti così. Questa è la vita nostra, se vogliamo difenderci la visibilità e la civiltà nei quartieri, dobbiamo essere in grado anche di difenderci da soli, perché se aspettiamo che qualcuno ci difende, stiamo bene con lui. Questo era Nunzio Derme di Action. Andremo avanti ancora per qualche minuto, poi daremo una lettura veloce del giornale radio e poi proseguirà il consueto palinsesto di Radio Onda Rossa. Allora, chiudiamo con quali appuntamenti. La prima considerazione è che quello che vogliono farci diventare le persone che stanno appresso tutto il giorno, appresso a questi miserabili, a questi pochi che di notte vengono a fare gli agguati, quindi la prima cosa che dobbiamo riconquistare è la forza, la serenità, la lucidità per stare tutti insieme e continuare a fare quello che li mette in difficoltà, cioè costruire spazi di libertà, lottare per i diritti, metterli all'angolo. Sapendo appunto che non stiamo facendo una guerra tra bande, perché è la destra al governo nazionale e al governo nelle città che ha costruito un'alleanza con Casa Pound per quello che ci siamo detti, intervento sociale in zone dove non c'è l'intervento sociale, un utilizzo elettorale. Quindi questa è la partita, questo per capire qual è la sfida di fronte. E Alemanno ha fatto campagna di elettorale sull'ossessione securitaria, ma la vera sicurezza è quella che la gente normale dovrebbe andare a casa tranquillamente e vivere nei quartieri senza nessun problema. Quindi riprendiamo in mano la questione della sicurezza dal punto di vista dell'agibilità democratica, delle libertà, della socialità. E oggi alle 18 a Piazza Sempione proviamo a costruire un primo momento di assemblea pubblica, presa di parola pubblica, perché dobbiamo parlare con il quartiere, con le persone, con i movimenti, con le forze politiche d'opposizione, e capire come questa campagna che costruiamo, che è una campagna chiara, è una campagna che dice alla destra che si è alleata con i fascisti per fare il lavoro sporco, e quindi la responsabilità politica del sindaco Alemanno di quello che è avvenuto, e a livello più generale del PDL e di Silvio Berlusconi dentro questo, quello che sta accadendo nel rapporto con la destra. Dobbiamo anche dire però con forza che dal basso i movimenti devono creare una risposta partecipata in cui mettere al centro le questioni sociali, perché vogliono colpire il territorio e la popolazione del quarto municipio, perché c'è un'esperienza che si chiama Pazzo, che ha unito studenti precari e reti di quartiere, che stanno riqualificando dal basso un immobile abbandonato. Cioè stanno facendo quella politica su welfare che il governo e il comune non riescono a fare se non vogliono fare. Quindi bisogna rompere questa logica bipartita di cui parlava anche Andrea, rimettendo al centro le questioni sociali. È un primo obiettivo che abbiamo raggiunto, perché il capo del gabinetto del sindaco, Lucarelli, ha dovuto convocare per venerdì mattina un tavolo, un incontro con gli studenti e precari di PAD, perché ha capito che questa vertenza non può essere equiparata semplicemente a una questione di ordine pubblico dei fascisti, perché questa vertenza ha mille ragioni e vive dentro una vertenza di alcuni anni che si è affermata in quel territorio, e che è una vertenza riconosciuta paradossalmente anche dal presidente del municipio del Quarto, che ha detto che è disposto ad aprire una trattativa pubblica sulla destinazione di questo spazio. Quindi questo è il primo punto che dobbiamo portare a casa. L'altra questione, credo che sia importante, è dare indicazione che il 30 maggio, che si discuterà il bilancio in questo, al comune Campidoglio, diventa l'appuntamento per i movimenti, gli studenti, i precari, le forze che si battono per un altro welfare, perché è attraverso un'idea diversa di diritti sociali, di welfare, di libertà, che costruiamo gli anticorpi democratici contro i fascisti, sapendo che stiamo discutendo sui fascisti al governo, di una destra che utilizza i fascisti in posizioni dominanti e che li porta in questa città. Quindi diciamo, questo è un po' lo schema, e noi vi invitiamo tutti all'assemblea di oggi e continuiamo a fare quello che facciamo in maniera più forte, perché dobbiamo evitare di metterci all'angolo. Siamo tanti, siamo più forti e dobbiamo ricostruire la GPA ai nostri territori, e dobbiamo aprire una campagna nazionale, dalle parole chiare, chiudere Casa Pound.